Lo sai, tu mi hai messo nei guai. I miei occhi sono isole dove non viaggi mai. Bravo, forse più di me, a ingannarmi senza maschera ed io a fidarmi di te. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma con l'istinto di una donna oggi so chi sei. Un gioco che non vinco mai, il mio sbaglio più grande. Depresso che non vola mai, giuro che ti sposerei, ma c'è nascosto un diavolo nelle lacrime che mi dai. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma non è giusto farne un dramma.